Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da giugno ad agosto del 1846. Una buona giornata da Simone Spezia, edizione speciale del Gazzettino del Risorgimento dedicata all'elezione del nuovo pontefice, ma soprattutto al suo primo atto, un'amnistia. Non c'era davvero questo entusiasmo il 17 giugno, quando la mattina dopo l'elezione il nome del nuovo romano pontefice fu annunciato al popolo di Roma. La sera prima, vista la fumata e soprattutto che i paramenti sacri erano quelli della terza misura, cioè per un papa piccolo, si era sparsa la voce che l'eletto fosse Gizzi, il legato di Forlì, considerato riformista. E così quando, il giorno dopo, fu annunciato che il papa era Giovanni Maria Mastai Ferretti, 54enne vescovo di Imola assurto al soglio di Pietro con il nome di Pio IX, la folla era stata un po' freddina. Il nome di Mastai Ferretti, uscito vincitore dopo soli due giorni di conclave come scelta più moderata rispetto al reazionario Lambruschini, era stato indicato dai cardinali con grande convinzione. La svolta, quella che ha suscitato e continua a suscitare un generale entusiasmo tanto nel popolo quanto tra i liberali, è arrivata un mese dopo, il 17 luglio, quando è stato affisso l'editto che ha concesso l'amnistia. 400 esiliati politici perdonati, 400 carcerati liberati. La sera stessa della pubblicazione una folla enorme si è radunata sotto le finestre del Papa inneggiando a Pio IX. Per due volte, all'una e alle tre di notte, il pontefice si è affacciato e qualcuno lo ha visto anche piangere per l'emozione. Per giorni la città ha fatto festa, tanto i prelati quanto i circoli sociali parlano di Pio IX come di un uomo santo, portatore di pace. Anche in Europa c'è emozione ed entusiasmo. L'8 agosto il Papa ha scelto Gizzi come segretario di Stato, ma i primi segnali sono contraddittori. Forse anche su Gizzi ci si era sbagliati. Le sue prime mosse non sembrano quelle di un riformista, ma di un conservatore. Paolo Piacenza al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Ed ecco dal documento Vaticano le motivazioni dell'amnistia nelle parole stesse di Pio IX. Nei giorni in cui ci commuoveva nel profondo del cuore la pubblica letizia per la nostra esaltazione al pontificato, non potemmo difenderci da un sentimento di dolore, pensando che non poche famiglie dei nostri sudditi erano tenute indietro dal partecipare alla gioia comune, perché nella privazione dei conforti domestici portavano gran parte della pena da alcuno dei loro meritata, offendendo l'ordine della società e i sacri diritti del legittimo principe. Volgemmo altresì uno sguardo compassionevole a molta inesperta gioventù, la quale, sebbene trascinata da fallaci lusinghe in mezzo ai tumulti politici, ci pareva piuttosto sedotta che seduttrice. Per lo che fin d'ora meditammo di stendere la mano e di offrire la pace del cuore a quei travati figliuoli che volessero mostrarsi pentiti sinceramente. Ora l'affezione che il nostro buon popolo ci ha dimostrata e i segni di costante venerazione che la Santa Sede ne ha nella nostra persona ricevuti ci hanno persuasi che possiamo perdonare senza pericolo pubblico. È tutto, sul nostro sito potete scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento o fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, missive digitali a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.